si vede passare una duchessa tutta nera, che per la sua bruttezza e stupidità, nonché per qualche errore di condotta, era stata esiliata non dalla società, ma da certe intimità eleganti. «Ah!» sussurrò Madame de Grammont, con il colpo d'occhio infallibile e disincantato dell'intenditore cui si mostra un gioiello falso. «Ricevono di questa roba qui?» Le era sufficiente la vista di quella donna semitarata, dal viso cosparso di un numero esagerato di nei pelosi, per valutare la mediocrità della serata. Pur essendo stata educata assieme a lei, aveva troncato ogni rapporto con la signora in questione, al cui saluto non rispose se non con un secco cenno del capo. «Non capisco», mi confidò quasi per scusarsi, «come Marie Gilbert possa invitarci con tutta questa feccia. Sembra proprio che ce ne sia di tutte le parrocchie. Era organizzato molto meglio da me la nipota. Lei poteva anche ricevere il Santo Sinodo e il Tempio dell'Oratorio se le garbava, ma in quei giorni almeno non invitava noi». Ma in molti casi era per timidezza, timore d'una scenata da parte del marito, il quale non voleva che ricevesse artisti, eccetera, eccetera. Marie Gilbert ne proteggeva parecchi. Bisognava fare attenzione a non lasciarsi abbordare da qualche celebre cantante tedesca. Timore anche motivato dal nazionalismo, che lei, come depositaria al pari di Charlie dello spirito de Garmont, disprezzava dal punto di vista mondano. Adesso, pur di esaltare lo Stato Maggiore, si anteponeva a più d'un duca un generale plebeo, ma al quale, sapendo d'essere considerata malpensante, faceva non di meno ampie concessioni, sino a rifuggire in quell'ambiente antisemita dal tendere la mano a Swann. Su questo punto si sentì però subito rassicurata, apprendendo che il principe non aveva lasciato entrare Swann e aveva avuto con lui una specie d'alterco. Non rischiava di dover conversare pubblicamente con quel caro Charles, che preferiva vezzeggiare in privato. «E quella chi sarebbe?» esclamò Madame de Grammont, vedendo che una piccola signora dall'aspetto un po' eccentrico, con un vestito nero così semplice che la si sarebbe detta una povera disgraziata, le rivolgeva assieme al marito grandi saluti. Non la riconobbe, e poiché aveva di questi scatti di insolenza, si raddrizzò con aria offesa e, fissandola senza rispondere, «Chi è questa persona, Bazaine?» chiese con un'intonazione sbalordita, mentre il signor de Grammont, per rimediare alla scortesia di Orient, si inchinava alla signora e stringeva la mano al marito. «Ma è Madame de Chauspierre. Siete stata davvero scortese. Chauspierre? Che roba è? Il nipote della vecchia Chanlivaux? Non ne so niente. Chi è quella donna? Perché mi saluta? Ma via, la conoscete perfettamente. È la figlia di Madame de Charleval, Henriette Montmorency. Ah, conoscevo benissimo sua madre. Era incantevole, molto spiritosa. Ma perché ha sposato tutta questa gente che non conosco? Avete detto che si chiama Madame de Chauspierre?» disse la duchessa, compitando l'ultima parola in tono interrogativo e come se temesse di sbagliarsi. Il duca la fissò con durezza. «Non è così ridicolo come date a vedere di credere chiamarsi Chauspierre. Il vecchio Chauspierre era il fratello della suddetta Charleval, di Madame de Senecourt e della viscontessa di Merleroux. Tutta gente come si deve. Ah, basta così, vi prego», esclamò la duchessa, la quale, come una domatrice, non voleva mai dare l'impressione di lasciarsi intimorire dagli sguardi feroci della belva. «Bazaine, voi mi state deliziando. Non so dove siete andato a scovare quei nomi, ma vi faccio tutti i miei complimenti. Ignoravo Chauspierre, ma in compenso ho letto Balzac. Non crediate d'essere solo, e persino la Biche. Apprezzo Chanlivaux, non mi dispiace Charleval, ma devo dire che Merleroux è veramente il massimo. Del resto bisogna ammettere che anche Chauspierre è tutt'altro che da buttar via. Avete fatto un lavoro da collezionista, non è possibile. Voi, che volete scrivere un libro», aggiunse rivolgendosi a me, «dovreste prendere nota di Charleval e Merleroux. Non potreste trovare di meglio. Si troverà molto semplicemente davanti a un tribunale e finirà in prigione. Gli date dei pessimi consigli, Orient. Spero per lui che abbia a disposizione qualcuno un po' più giovane se ha voglia di chiedere dei cattivi consigli e soprattutto di seguirli. Ma se non ha in mente nient'altro di più peccaminoso d'un libro. A una certa distanza da noi, una giovane donna meravigliosa e fiera risaltava dolcemente in un abito bianco di tulle e di diamanti. Madame de Germain posò lo sguardo su di lei che parlava davanti a un gruppo di persone, tutte magnetizzate dalla sua grazia. «Vostra sorella è sempre la più bella. È davvero incantevole stasera», disse la duchessa, mentre prendeva una sedia al principe di Chimay, che le stava passando vicino. Il colonnello di Froberville, nipote dell'omonimo generale, venne a sedersi accanto a noi, e lo stesso fece il signor di Breauté, mentre il signor di Vaugobert, ondeggiando per un eccesso di cortesia che conservava anche quando giocava a tennis, tanto che, a furia di chiedere permesso ai personaggi importanti prima di colpire la palla, faceva inevitabilmente perdere la partita alla sua squadra. Si riavvicinava al signor di Charlieu, fino a quel momento quasi avvolto nell'immensa gonna della contessa Molé, che gli dichiaratamente ammirava più di ogni altra donna, proprio per combinazione, nell'istante in cui i vari membri di una nuova missione diplomatica a Parigi salutavano il barone. Alla vista di un giovane segretario dall'espressione particolarmente intelligente, Vaugobert fissò Charlieu con un sorriso dal quale sbocciava una sola, inequivocabile domanda. A Charlieu non sarebbe certo dispiaciuto compromettere qualcuno, ma sentirsi compromesso, lui, da quel sorriso che veniva da un altro e poteva avere un unico significato, lo esasperò. «Non ne so assolutamente nulla. Le vostre curiosità, vi prego, tenetevele per voi. Dire che mi lasciano freddo è troppo poco. Del resto, nella fattispecie, state prendendo un granchio colossale. Secondo me quel giovanotto è esattamente l'opposto». E qui il signor di Charlieu, furioso di vedersi denunciato da uno sciocco, non diceva la verità. Se l'avesse detta, il segretario avrebbe costituito un'eccezione all'interno di quell'ambasciata. Essa risultava infatti composta di personalità molto disuguali, parecchie affatto mediocri, di modo che, cercando di individuare il criterio alla base della scelta caduta su di loro, non se ne sarebbe trovato alcuno all'infuori dell'inversione. Mettendo alla testa di quella piccola sodoma diplomatica un ambasciatore che, invece, amava le donne con un trasporto comicamente eccessivo, da spalla di avanspettacolo e comandava a bacchetta il suo battaglione di travestiti, sembrava che si fosse obbedito alla legge dei contrasti. Malgrado tutto quello che gli passava sotto gli occhi, egli non credeva all'inversione. E subito lo dimostrò, dando in sposa la sorella a un incaricato d'affari nel quale vedeva, a torto, un donnaiolo. La sua presenza divenne, da quel momento, un po' imbarazzante, al punto che fu rapidamente sostituito da una nuova eccellenza in grado di assicurare l'omogeneità dell'insieme. Altre legazioni cercarono di rivaleggiare con l'ambasciata in questione, ma non riuscirono a contendere il primo premio, come al concorso nazionale, dove è sempre un certo liceo ad ottenerlo, e ci vollero più di 10 anni perché, dopo che alcuni attaché eterogenei si furono introdotti in quella totalità così perfetta, un'altra potesse infine strapparle la funesta palma e passare in testa. Liberatasi dal timore di dover parlare con Swann, Madame de Germont provava soltanto curiosità ormai circa la conversazione che gli aveva avuta col padrone di casa. «Sapete qual era l'argomento in discussione?» chiese il duca al signor di Breauté. «Ho sentito dire», rispose quest'ultimo, «che si trattava di un breve testo teatrale che Bergotte, lo scrittore, aveva fatto recitare a casa loro. Una cosuccia deliziosa, tra parentesi. Ma l'attore, a quanto pare, s'era truccato da Gilbert, ed era di lui in effetti che il signor Bergotte aveva voluto fare il ritratto. Oh, mi sarebbe piaciuto vedere imitare Gilbert», osservò la duchessa con un sorriso sognante. «E su questa piccola rappresentazione», riprese il signor di Breauté, sporgendo la sua mascella dal roditore, «che Gilbert ha chiesto delle spiegazioni a Swann, e Swann si è limitato a rispondere con una battuta che tutti hanno trovato molto spiritosa. Ma no, ve lo garantisco, non vi assomiglia affatto. Voi siete molto più ridicolo. Sembra proprio, del resto, continuò Breuté, che lo spettacolino fosse delizioso. Madame Mollet l'ha visto, si è divertito un mondo. Come? Madame Mollet va in quella casa? Si stupì la duchessa. Ah, sarà stato Mémé a combinare tutto quanto. Finisce sempre così, con posti del genere. Un bel giorno tutti cominciamo ad andarci e io, che mi sono autoesclusa per principio, mi ritrovo da sola ad annoiarmi nel mio cantuccio. Dopo il racconto del signor di Breuté, la duchessa di Guermantes aveva già adottato, come si vede, se non sul salotto Swann, perlomeno sull'eventualità di incontrare Swann da un istante all'altro, un nuovo punto di vista. «La vostra spiegazione», replicò il colonnello de Froberville al signor de Breuté, «è inventata di sana pianta. Lo dico con cognizione di causa. Il principe ha fatto puramente e semplicemente una scenata a Swann, invitandolo a prendere buona nota, come dicevano i nostri padri, di non farsi più vedere in casa sua, date le opinioni che va sbandierando. E secondo me, non solo lo zio Gilbert ha avuto mille volte ragione a fargli una scenata, ma già da almeno 6 mesi avrebbe dovuto farla finita con quel dreyfusista confesso. Il povero signor di Vaugobert, trasformato ora egli stesso da giocatore di tennis a rallentatore in inerte palla da tennis rilanciata senza troppi riguardi, si trovò proiettato verso la duchessa di Guermantes, alla quale presentò i suoi omaggi. Fu ricevuto piuttosto male, giacché Orian viveva nella convinzione che tutti i diplomatici o uomini politici del suo mondo fossero degli imbecilli. Il signor di Froberville aveva beneficiato, per forza di cose, del trattamento di favore che da qualche tempo la buona società riservava ai militari. Per sua disgrazia, se la donna che gli aveva sposata era autenticamente imparentata con i Guermantes, apparteneva tuttavia alla frangia dei loro parenti più poveri. E poiché lui stesso aveva dissipato il proprio patrimonio, godevano di ben poche relazioni e venivano lasciati da parte tranne che nelle grandi occasioni, quando avevano la ventura di perdere o di maritare qualche parente. Allora partecipavano pienamente alla comunione del gran mondo, come quei cattolici di nome che s'accostano alla sacra mensa una sola volta all'anno. La loro situazione materiale sarebbe stata addirittura disastrosa se Madame de Saint-Hubert, fedele all'affetto da lei portato un tempo al defunto generale di Froberville, non avesse aiutato in tutti i modi la famiglia, regalando alle due figliolette vestiti e svaghi. Ma il colonnello, pur avendo fama di buon ragazzo, non era incline alla riconoscenza. Invidiava i fasti d'una benefattrice che li celebrava senza sosta e senza misura. Il garden party annuale era per lui, sua moglie e le sue figlie un piacere meraviglioso, cui non avrebbero voluto mancare per tutto l'oro del mondo, ma avvelenato dal pensiero delle gioie che ne traeva l'orgoglio di Madame de Saint-Hubert. L'annuncio del garden party nei giornali, seguito dopo un resoconto circostanziato da un machiavellico «Torneremo su quella bella festa», i dettagli complementari sulle toilette forniti per parecchi giorni di fila, tutto ciò faceva talmente male ai Froberville che, sebbene alquanto digiuni di piaceri e certi di poter contare su quelli delle mattinée Saint-Hubert, arrivavano ogni anno ad augurarsi che il maltempo ne compromettesse la riuscita, a consultare il barometro, a pregustare con delizia le avvisaglie d'un temporale che potesse mandare a monte la festa. «Non voglio discutere di politica con voi, Froberville», dichiarò il signor de Guermantes, «ma per quel che concerne Swann, posso dire con tutta franchezza che il suo comportamento nei nostri confronti è stato inqualificabile. Introdotto in società a suo tempo da noi, dal duca di Chartres, adesso mi dicono è apertamente dreyfusista. Non me lo sarei mai aspettato da uno come lui, un fine intenditore, una testa di prim'ordine, collezionista, appassionato di vecchi libri, membro del giochi, un uomo circondato dalla stima di tutti, un conoscitore di indirizzi giusti che ci mandava il miglior porto che si possa avere, un cultore delle arti, un padre di famiglia. Ah, sono stato davvero ingannato. Non parlo per me. Si sa che sono un vecchio somaro la cui opinione non conta nulla, una specie di scalzacani. Ma fosse pure solo per Orian, Non avrebbe dovuto farci questo. Avrebbe dovuto sconfessare apertamente gli ebrei e i sostenitori del condannato. Sì, se non altro per l'amicizia che mia moglie gli ha sempre testimoniata, riprese il duca, secondo il quale evidentemente condannare Dreyfus per alto tradimento, a prescindere dall'opinione che sulla sua colpevolezza si potesse avere dentro di sé, costituiva una sorta di ringraziamento per essere stati accolti con benevolenza nel Faubourg Saint-Germain. Swann avrebbe dovuto dissociarsi. Perché? Chiedetelo a lei. Oriane era legata da vera amicizia. La duchessa, pensando che un tono ingenuo e pacato avrebbe dato un accento più drammatico e sincero alle sue parole, disse con voce da scolaretta, come se si limitasse a lasciar fluire la verità dalla sua bocca e infondendo allo sguardo una lievissima sfumatura di malinconia: «Ma sì, è vero, non ho motivo di nasconderlo. Ero sinceramente affezionata a Charles. Ecco, vedete, non sono io a inventarmelo. E con tutto ciò ha spinto la sua ingratitudine sino a diventare dreyfusista».